Se tutta l'IVA fosse pagata regolarmente, il rapporto deficit prodotto interno lordo in Italia sarebbe tra i più bassi in Europa. Lo ha detto Mario Draghi, da governatore di Banca Italia. Secondo i dati della Banca d'Italia, infatti, tra il 2005 e il 2008 è stato evaso il 30% della base imponibile dell'IVA, equivalente a 2 punti di prodotto interno lordo ogni 12 mesi. Nel 2010 l'evasione IVA accertata dalla Guardia di Finanza ha raggiunto i 6 miliardi e 300 milioni, il colonnello Gianluca Campana. Di recente la Guardia di Finanza in Lombardia ha scoperto una frode carosello piuttosto articolata nel settore della macellazione e la grande distribuzione di carni. Si trattava di imprese fantasma che acquistavano dall'estero oltre 600 milioni di prodotto che venivano poi rivendute nell'ambito del territorio nazionale. Abbiamo contestato oltre 600 milioni di fatture false e un'evasione di IVA per 120 milioni e abbiamo altresì consentito di apprendere il patrimonio di questi soggetti mediante il sequestro di numerosi terreni immobili, autovetture di lusso, tra cui una Ferrari, imbarcazioni e un allevamento di cavalli di razza. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.